io non so chi vi tenga che non ti graffi il volto. Eccomi ai vostri piedi. No, non ti credo. Se più guardi Clarigiulo sul volto, conoscerai chi sono. E a tuo dispetto, a miei cenni dovrai starti soggetto.